Intanto ho accolto con vero piacere la richiesta di Andrea Battaglia di dialogare con Anna Maria Corallo per presentare questo libro, Gesù oltre gli stereotipi patriarcali, un volumento, vedete, di 100 pagine, però scritto con un linguaggio assolutamente chiaro e dal titolo decisamente intrigante. Gesù oltre gli stereotipi patriarcali, il cui obiettivo, leggo nel libro, è quello di accompagnare lettore e lettrice nella scoperta della proposta liberante del Vangelo di Gesù, l'uomo che ha mostrato il volto più nitido di Dio al punto da essere riconosciuto come suo figlio. Bellissimo. Il libro è frutto di un corso online che Anna Maria ha fatto all'inizio dell'anno, abituata a fare questo tipo di attività. E mi è piaciuto molto anche la dedica. Ha dedicato alla mamma che le ha insegnato a credere senza rinunciare a pensare. È pubblicato da una casa editrice, La Meridiana, che è una casa particolarmente attenta alle tematiche religiose che possiamo considerare di confine, nel senso che pubblica testi che altre case editrici cattoliche preferiscono non pubblicare, tanto per essere chiaro. Anna Maria Corallo è una teologa biblista e docente alla Pontificia Università Gregoriana. Prima di venire qui ha fatto una lezione ieri a Roma per la cattedra di introduzione al Nuovo Testamento e insegna anche all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento, didattica delle religioni, Della della religione. religione. Esperta in metodologie formative interattive, autrice di numerosissime pubblicazione di teologia biblica, di manuali metodologici per gruppi biblici, di sussidi catechetici ed è anche presidente dell'associazione Getta la Rete che a Napoli opera nell'ambito della promozione umana attraverso l'arte e la spiritualità. In particolare è responsabile di una rubrica che si intitola Una Bibbia trasgressiva. Leggo nel sito uno spazio di ricerca e confronto intorno alla riflessione su Dio da parte della Bibbia per riscoprirla custode di senso e pienezza per la vita di ciascuno e ciascuna di noi. Tutto un programma. Ecco, io più che dialogare con Anna Maria, le farò una serie di domande per darle la possibilità di percorrere a grandi linee il contenuto, ahimè, di tutto il libro, ma non vi preoccupate perché lei è bravissima nel essere concisa e nel dire anche concetti molto molto importanti. Comincerei con una prima doppia domanda, Anna Maria. Possiamo ritenere che il tuo sia un saggio di esegesi femminista di alcune pagine del Vangelo di Marco e se sì, perché l'esegesi femminista può essere considerata oggi come uno dei legittimi, utili e preziosi metodi di approccio alla Bibbia? Dunque, prima di tutto, buonasera a tutte e a tutti voi. Sono estremamente felice di condividere questo momento insieme a persone così speciali. Andrea che mi ha invitato a tutta questa, diciamo, esperienza spirituale, cioè di respiro. La spiritualità è il respiro che ci abita e ci fa andare avanti. Andrea qui ha cominciato con domande già belle toste sul mio orizzonte, diciamo così, di lettura biblica. Io in realtà mi ritengo una teologa biblista dell'inclusione. Questa è l'espressione che mi è piaciuto inventare, o meglio, che mi ha detto una delle persone che frequenta i miei incontri. Perché Perché il femminismo è questo. Qualcuno pensa che il femminismo sia il contrario del maschilismo, ma questo è un equivoco grossolano. Il maschilismo è il ritenere che il maschio in quanto tale debba avere un certo predominio a livello culturale, sociale, familiare, deliberativo, eccetera. Il femminismo è ricordarci invece di tutte quelle minoranze che lungo la storia sono state in qualche modo, diciamo, oppresse, sminuite, minoranze non solo non numeriche anche, perché le donne pare siano anche di più degli uomini, però nel contesto storico, una storia millenaria che ci accompagna, hanno sempre vissuto in qualche modo un ruolo ancillare, l'ancilla, l'ancella, la serva. Non a caso la Chiesa ama chiamare Maria con questi termini, perché è subito un quadro nel quale far riconoscere il ruolo servile delle donne. E detta questa cosa, quindi sull'inclusione, sicuramente l'esegesi in ambito anche cattolico, quando dico esegesi intendo la possibilità di interpretare un testo, eis ago, vado verso un significato, ma anche ex ago, traggo un significato da qualcosa. Quindi l'esegesi, l'interpretazione di un testo, non solo risente di tanti, diciamo così, strumenti scientifici per riconoscere lo strato storico, lo strato teologico e quello spirituale di un testo, ma l'esegesi lo facciamo noi persone concrete, che abbiamo delle prospettive con le quali guardiamo la vita e con le quali leggiamo i testi. E una di queste prospettive è quella appunto di genere o dell'inclusione, che valorizza i testi, pur sapendo, diciamocelo subito, tanto non ci sente nessuno qui, che la Bibbia è un testo nato in un contesto patriarcale, evidentissimamente. Anche i Vangeli, che pure ci raccontano un'umanità strepitosa come quella di Gesù, sono scritti da persone che in buona sostanza cercano di addomesticare il dato femminile. E ve ne faccio un piccolo esempio. Non so se avete mai notato, nel Vangelo di Marco, quando spuntano le discepole. Il Vangelo sta per finire, tutto è andato bene, c'è il gruppo dei discepoli, discepoli a destra, discepoli a sinistra, chiamate di discepoli, i discepoli diventano apostoli. Sotto la croce, all'improvviso, Marco ci racconta che da lontano alcune donne che erano sue discepole lo seguivano. Ops. E dove erano queste discepole tutto il tempo precedente? Perché Marco ce l'ha nascoste? Quindi dobbiamo allora rimmaginare la chiamata delle discepole, dobbiamo rimmaginare gli insegnamenti alle discepole. E infatti le parabole, se ci fate caso, sono ricche di immagini, non solo maschili ma anche femminili. Quindi Gesù parlava anche a delle donne che conoscevano bene cosa significava perdere la moneta, impastare la farina con l'acqua e con il lievito. Quindi questo fenomeno di silenziamento del femminile avviene nella Bibbia. Però siccome la Bibbia custodisce la parola di Dio, la Bibbia non è parola di Dio, la Bibbia custodisce la parola di Dio, cioè ha bisogno di essere interpretata per sprigionare la sua potenzialità, ecco che dobbiamo interpretarla per cogliere tutti quegli aneliti di liberazione di cui la Bibbia è piena. Allora, sei una teologa femminista, se vi piace questo termine sì, se non vi piace vi dirò dell'inclusione, sono per me sinonimi, è lecita una esegesi femminista, è lecita ogni esegesi che ci libera la parola e ci rende più umani. Grazie. Allora, cominciamo con la prima vera domanda. Puoi spiegare perché, come scrivi a pagina 23, Dio, patria e famiglia, motto di mazziniana memoria, è reso tristemente famoso da Mussolini, non sembra essere questo slogan, Dio, patria e famiglia, preferito da Gesù? Allora, inizierei col dire che cos'è il patriarcato, per rispondere a questa domanda. Il patriarcato, pater arché, arché è il principio regolatore, e il pater, il padre, il maschio, In questo contesto, che è un contesto che ha accompagnato la storia dell'umanità quasi da subito, io spiego anche da un punto di vista scientifico perché, quindi andate a leggere qualcosa, non mi fate dire tutto. In questo orizzonte si è un po' affermato uno slogan che io ho voluto recuperare da una memoria lontana che sta ritornando, ahimè, molto, diciamo, attuale, che appunto è Dio, patria e famiglia, per vedere che cosa si intendevano con questi termini nel contesto patriarcale, o che cosa si intende, perché il patriarcato non è morto. Sta un po' male, ma diciamo non è morto. Il patriarcato abita il nostro modo di essere e di pensare, perché veniamo tutti da una cultura fortemente impastata dalla logica patriarcale. In questa logica, e vediamo al tempo di Gesù, così specularmente la ritroviamo anche nei nostri giorni, la patria che cos'era? La parola patria vuol dire, è un troncamento di una frase, è la terra dei padri. Quindi è quella terra che i maschi fanno ereditare ad altri maschi. Dico maschi, non posso dire uomini, perché nel nostro linguaggio italiano la parola uomo, purtroppo, ingloba anche il femminile, il famoso, no, uso, diciamo, inclusivo dei termini. Però in effetti in questo caso no, quindi gli uomini maschi avevano la terra, al tempo di Gesù non poteva una donna ereditare una terra, non poteva possedere qualcosa, era sempre di un maschio. E quindi questi uomini, questi maschi, hanno una terra che difendono, per la quale hanno bisogno di braccia, le famose braccia per la patria. E questa, diciamo, patria è pensata come qualcosa che esclude gli altri. La patria dice il noi e dice il voi o il loro, quelli che sono fuori. Quindi il perno del patriarcato, della patria. Vi sembra compatibile con Gesù di Nazareth, che ha fatto un sacco di robe, tipo fare, incontrare persone di altri popoli e apprezzarne la fede più ancora di quella che aveva ritrovato nel popolo ebraico? No? Quante volte dirà: non ho mai visto una fede così grande. Ah, lo stai dicendo del sommo sacerdote? No, della sirofenicia, del centurione romano. Quindi vedete che il concetto di patria non mi sembra che in questa accezione abbia molto senso per Gesù. Il concetto di famiglia, nella logica patriarcale, è colei che è la famiglia, quella che sforna le braccia per la patria. La famiglia, quella, diciamo, tradizionale, che si regge sull'unione tra un uomo e una donna. Al tempo di Gesù è una famiglia nella quale la donna non è altro che una, diciamo così, un oggetto procreativo. Il focus della famiglia è avere figli nel contesto antico. Noi oggi sappiamo che la famiglia è l'insieme delle persone che si amano e che insieme costruiscono un progetto. Nel patriarcato la famiglia non è questo. Il patriarcato alla famiglia è uno strumento funzionale ad avere braccia, ad avere soprattutto figli maschi. Non so se si dice dalle parti vostre auguri ai figli maschi, anche dalle parti mie. Perché? Perché è un adagio patriarcale che noi abbiamo introiettato, l'abbiamo ingoiato, lo sentiamo vero, vero senza elaborarlo, perché poi se ci pensiamo non lo crediamo. Allora, in questo contesto, la famiglia, più che essere un luogo di amore, un luogo di crescita, è semplicemente un dispositivo che garantisce una sussistenza della patria. Ebbene, ma Gesù si è sposato? Gesù ha messo su famiglia? Mi risulta di no, non so se avete altre fonti, intanto c'è qualcuno che ha un'altra fonte, ma dalle fonti canoniche che io leggo scopro che Gesù, almeno quando compare sulla scena dei Vangeli, non è sposato. Non sappiamo se potesse essere forse vedovo, ma in ogni caso quando lui è maestro non è sposato. Perché? Gusti difficili? Nessuno lo voleva? Perché Gesù polemizza con un sistema, polemos in greco vuol dire guerra, fa guerra a un sistema sociale come quello della famiglia, nel quale non c'è parità, non c'è apertura, non c'è riconoscimento dell'altro, anzi la famiglia è il nucleo dell'esclusione. E l'ultima parola è Dio. Beh, potremmo dire Gesù sicuramente invece aveva come punto di riferimento Dio, ma certamente non il Dio della patria, quello di cui si sventola la bandiera per conquistare le altre terre o per cacciare le altre persone, e non il Dio di quella famiglia che invece di essere uno spazio di amore è un oggetto procreativo. Quindi lo slogan Dio, famiglia e patria, tanto caro a certe impostazioni, dal mio punto di vista di teologa biblista, non doveva essere assolutamente lo slogan preferito di Gesù. Grazie. Andiamo capitolo secondo, oltre alle aspettative familiari, pagina 40, parlando del modo di rapportarsi da parte di Gesù nei confronti dei suoi genitori e della sua famiglia, è un'espressione molto bella. Dio su di noi non ha aspettative, ma solo sogni. In che senso Gesù mostra una sconcertante libertà dalle aspettative parentali sulla sua collocazione familiare? Qui dobbiamo dire qualcosa. Nessuno si dispiaccia. Vi state dispiacendo già? Non vi dispiace. Nessuno si dispiace, ma dobbiamo vedere come nel Vangelo di Marco è presentato il rapporto tra Gesù e la sua famiglia. Quando apriamo il Vangelo di Marco ci manca un pezzo, che Gesù compare sulla scena già adulto. Non ci sono i racconti dell'infanzia, non si racconta quando nasce, l'annuncio, niente, è adulto. E questa madre, questo padre sono pressoché assenti. Se non che al terzo capitolo del Vangelo secondo Marco spunta la madre, ma non spunta come lo vorremmo noi, sugli altari, tutta carina. No, spunta mentre capeggia un gruppo, sono i familiari di Gesù, secondo il racconto di Marco sono i fratelli e le sorelle di Gesù, sono partiti da Nazareth per andare a riprendere Gesù, perché dicono è uscito pazzo, è fuori di sé, dice il testo greco, e vuol dire pazzito. Quindi Gesù sta sfuggendo a che cosa? Alle aspettative della sua famiglia. Che cosa voleva la sua famiglia? Ora, voi avete famiglia o avete comunque conosciuto famiglie, immaginate una famiglia del tempo di Gesù, in un tempo difficile economicamente, e noi, insomma, socialmente complicato, noi, politicamente difficile. Ora, in questo contesto così lontano da noi, eppure così vicino, che cosa può volere la mamma di Gesù? Che il figlio abbia un lavoro dignitoso, possibilmente un posto fisso, e ce l'aveva, aveva la bottega di Nazareth. Voi sapete che Nazareth distanziava pochissimi chilometri, si distanziava di pochissimi chilometri da Sepphoris, che era la capitale, che era stata distrutta, quindi stavano ricostruendo, allora un falegname può lavorare. Lui aveva una famiglia, comunque era il primogenito di una famiglia numerosa, a quanto ci racconta Marco. Hai una famiglia che ti tutela. Che cosa fa Gesù? Cari ragazzi, vi saluto e vado. Lascia tutto e va girando. Nel terzo capitolo c'è un dettaglio meraviglioso. Dice che Gesù non aveva neanche il tempo di mangiare. Ed ecco che spunta la mamma. Hai mangiato? Non ha il tempo di mangiare. La madre parte con la spedizione familiare. Lo vanno a riprendere. Vi ricordate quella scena molto bella? Gesù sta parlando, certamente non come me, con molto più successo di, diciamo, immagini teologiche, e dopo gli dicono, vedi che tua madre sta fuori, perché poi Marco è anche molto furbetto, la famiglia pensa che Gesù sia fuori, e invece Marco dice, è la tua famiglia che sta fuori. Tua madre e i tuoi fratelli, stando fuori, ti cercano. Allora, naturalmente, noi che cosa avremmo fatto? Che cosa ci immaginiamo? La Madonna sta fuori e Gesù va da lei. Mamma, benvenuta. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Perché Gesù disconosce questa famiglia? Perché loro pensano che lui sia fuori dalle aspettative familiari, e lo è. Ma Gesù pensa che loro sono fuori da una logica nuova, che non si accontenta di posti fissi, di sicurezze, ma che sente ardere il fuoco della missione, il desiderio di raccontare a tutti il volto di Dio. E per fare questo Gesù deve pagare con la sua vita questa scelta. Non si fa una famiglia e contesta le pretese della sua famiglia. Allora qualcuno potrebbe dire: ma allora Gesù non onora il padre e la madre, come invece chiedono le scritture? Ed ecco che io rispondo con quel testo che citava prima Andrea. Che cosa significa onorare il padre e la madre? Nel senso ebraico antico voleva dire, vedete, onorare è lo stesso termine che vuol dire pesare, dare un peso al padre e alla madre. Onora Dio vuol dire dai un peso a Dio nella tua vita. Ebbene, tutti pensavano che onorare volesse dire obbedisci. Gesù invece ci fa capire che onorare vuol dire realizza il sogno dei tuoi genitori. Qual è? La tua felicità. Ogni genitore vuole la felicità dei figli. E Gesù lo sa e realizza la sua anche a costo di sfuggire alle aspettative familiari. E questa batosta, io penso che stando ai Vangeli, Maria di Nazaret l'ha capita molto bene, l'ha capita molto bene questa cosa, perché noi sappiamo che poi farà parte del gruppo discepolare di Gesù. Quindi una donna capace di una conversione di pensiero, quella di cui abbiamo bisogno anche noi per lasciare gli stereotipi patriarcali. Leggo un pezzetto, così poi chi non l'ha letto stasera torna a casa e lo legge il libro. Noi non siamo nati per assecondare le aspettative di nessuno, neanche quelle di Dio. Perché Dio su di noi non ha aspettative ma solo sogni. Il sogno è un orizzonte di realizzazione nel quale si può crescere investendo tutta la nostra fantasia, volontà e tenacia. Il sogno di Dio è la nostra completa umanizzazione, da compiere coltivando relazioni capaci di farci essere tutto quello che possiamo essere nell'amore. È un'altra frase che copieremo, ma ti citerò. Grazie. Terza domanda, che è riferita al terzo capitolo, davvero questo molto interessante dal punto di vista dell'interpretazione degli episodi del Vangelo. Il capitolo quinto del Vangelo di Marco, se qualcuno di voi se lo ricorda, narra la narrazione in terra pagana di un uomo posseduto da una moltitudine di spiriti immondi e un doppio miracolo di Gesù, tutto connotato al femminile. La guarigione della donna sirofenicia che da 12 anni soffre di perdite del sangue e il reinserimento nella vita normale, come dico io, della figlia dodicenne di Gairo, ritenuta morta. Ecco, in che senso, Anna Maria, questa è la quarta domanda, questi tre famosi episodi possono essere letti come superamento da parte di Gesù di stereotipi di genere riguardanti le aspettative rigide sui comportamenti maschili e femminili richiesti dal contesto socioculturale del tempo, ma anche noi oggi. Dunque, intanto grazie anche di questa domanda. Io ci tengo molto al terzo capitolo del mio libretto, un po' perché l'ho scritto io, un po' perché introduco il tema dei ruoli di genere sullo sfondo della complessità dell'identità sessuale. Quindi chi di voi avrà il coraggio di comprarsi questo libro potrà andare a leggersi tutti quegli aspetti della nostra identità sessuale che, queste registrazioni a chi vanno, che tristemente nella Chiesa sono state liquidate con la favola della teoria gender, che non esiste. E qualcuno deve avere il coraggio di dire che la teoria gender non esiste. perché non esiste nessuno studioso al mondo che dice io sono uno studioso del gender, non esiste. È un'invenzione, come dico nel libro, di una frangia oltranzista dell'ultracattolicesimo americano, che purtroppo ha avuto molto successo. Esiste invece il mondo degli studi di genere, del quale penso che Cristina sia anche esperta, che analizzano le dimensioni della sessualità umana in tutte le sue, diciamo così, espressioni, no? E quindi in quel contesto io poi parlo dei ruoli di genere. Cosa sono i ruoli di genere? Quello che mi aspetto che un uomo in quanto maschio faccia nella società è quello che mi aspetto che una donna in quanto femmina faccia nella società. Leggendo il Vangelo di Marco ho trovato in questo capitolo quinto, meraviglioso, questi miracoli che Gesù compie, che più che essere miracoli sono simboli di liberazione, perché i miracoli, ve lo voglio dire amichevolmente, sono simboli di liberazione. Vi rimando a un mio libro di successo, quasi 4 copie vendute in tutto il mondo, che si chiama Gesù Superman, ma anche no. Sottotitolo, miracoli e altri equivoci. Ok. Ora, che cosa si racconta in questo quinto capitolo di Marco? Si racconta che Gesù incontra un uomo che vive incatenato in un cimitero. È un uomo che si percuote, un uomo praticamente nudo, che si percuote, tutti hanno paura di lui. Che cosa ho visto io in questa immagine, leggendolo come un simbolo? Ho visto un uomo concreto che non riesce a reggere alle aspettative patriarcali su di lui. Perché vedete, c'è una grossa illusione. Qualcuno pensa che il patriarcato voglia dire viva gli uomini e abbasso le donne. No. Il patriarcato vuol dire che ognuno ha un ruolo schiacciante, fisso, rigido, che deve seguire. E che un uomo non può essere fragile, non può essere bisognoso di confronto, di conforto, ma l'uomo che non deve chiedere mai, di antica memoria. Ecco, quest'uomo che Gesù incontra è relegato nei sepolcri perché si è o è stato allontanato dal contesto vitale. I sepolcri nell'antichità erano luoghi impraticabili, noi già andiamo al cimitero, gli ebrei anche no, perché il cimitero rendeva impuri. Quest'uomo ha vissuto un modello, è il modello dell'uomo forte che può essere addirittura violento. Quando Gesù gli chiede come ti chiami, risponde mi chiamo Legione. La Legione era l'insieme di, potevano arrivare a 6.000 uomini armati. Pensate, un ebreo che pensa a una Legione romana, quanta violenza, quanta prepotenza, quanto sopruso sta immaginando. Quest'uomo dice io mi sento lacerato da una violenza che mi impongono come modello maschile. E Gesù lo libera da questo. Sapete come lo libera? Lo libera chiedendogli tu chi sei dal tuo punto di vista, tu come ti chiami? E quella domanda è il miracolo. Gesù mostra un maschile capace di dialogare, un maschile capace di chiedere. Per noi potremmo dire un maschile capace di essere un essere umano nella sua completezza, nella sua fragilità. A me una cosa ha colpito tanto nel tempo più atroce del lockdown che abbiamo vissuto. Il numero di suicidi maschili. Perché si sono uccisi questi imprenditori, questi padri di famiglia? Perché si sono uccisi? Perché il modello della società patriarcale diceva devi farcela per forza perché sei un uomo che non deve chiedere mai. E se non ce la fai, devi morire. Questo è un esempio eloquente, drammatico, della violenza del modello patriarcale anche sugli uomini. Il secondo incontro che fa Gesù è con due donne che intrecciano le loro storie. Una donna perde sangue da 12 anni, che vuol dire impura, non può frequentare la sinagoga, non può essere accostata per rapporti intimi assolutamente no, non può avere una famiglia, non può avere figli, è una donna che nella cultura patriarcale non serve. Questa donna, vi ricordate, tocca il mantello di Gesù, mentre c'è una ressa di persone che gli stanno attorno, Gesù dice: chi mi ha toccato? E i discepoli, sempre molto acuti, dicono: ma come? C'è tutta sta folla e tu chiedi chi ti ha toccato? Gesù con quella domanda fa il secondo miracolo di quel capitolo: permettere a una donna insignificante, invisibile, di dire: io esisto. Questo è il miracolo che rende quella donna un soggetto attivo nella società. E il terzo incontro è questo con la figlia di Gairo, che Gairo presenta a Gesù dicendo: la mia bambina. Quando Gesù la incontra vede che ha 12 anni, l'età del matrimonio per le donne ebree. Quindi che cosa intuisce Gesù? Che questa bambina, che questa donna non riesce ancora a svincolarsi dal controllo paterno genitoriale. Le prende la mano e le dice: alzati, riprendi la tua vita. E poi dice ai parenti: datele da mangiare, cioè permettetele di vivere in maniera più autonoma. Sono dei racconti con una potenzialità simbolica altissima, che ci dicono che il Vangelo è venuto a portare la bella notizia. Sapete qual è la bella notizia? Tu vai bene così come sei. Tu puoi essere tutto quello che riesci ad essere, anche nella tua fragilità. E questa cosa non nasce perché te lo concediamo, ma perché Dio ti ha voluto così. Ed è soltanto l'amore di quando ci sentiamo accolti così come siamo che ci trasforma, nient'altro più. Grazie. Leggo a pagina 59. I ruoli sociali e l'espressione di genere devono poter lasciare esprimere l'originalità di ciascuna persona senza imporre schemi rigidi e soffocanti. Questo è coerente con il Vangelo della liberazione che Gesù è venuto a portare, per parlare del volto di un Dio vitale e amante, creativo e creante, che vuole la piena felicità per i propri figli e le proprie figlie. E vediamo una quinta domanda. Commentando la risposta data da Gesù a chi gli chiede se sia lecito ripudiare la moglie, o di chi nella resurrezione sarà moglie la donna rimasta vedova dopo aver sposato 7 mariti, tu dimostri come in aperta e profetica polemica con un certo modo patriarcale ed androcentrico di intendere il matrimonio, Gesù, nella sua veste di rabbi celibe, si pronunci contro il ripudio che lascia le donne senza sostegno economico e prenda le distanze da chi vede nella donna un mero strumento di procreazione. In che senso, questa è la domanda, Gesù prende le distanze dal mondo strumentalizzante con cui il matrimonio era vissuto nella prospettiva patriarcale? Beh, un po' la domanda già custodisce i germi della risposta, perché, giusto per dire un'altra cosa non particolarmente tradizionalista, noi pensiamo che nel Vangelo Gesù condanni il divorzio. Ma dobbiamo essere onesti, dal punto di vista storico il divorzio non esisteva. Esisteva il ripudio, cioè io uomo che ti ho sposata preferisco un'altra situazione e ti lascio. Che cosa voleva dire questo socialmente? Che tu donna rimanevi in mezzo a una strada, senza il sostentamento di un marito, senza più quello di un padre, non potevi tornare a casa di tuo padre. L'unica speranza era trovare un altro marito oppure finire nel giro della prostituzione, così ben avviato dalle truppe romane presenti in numero elevato. Quando Gesù dice di non ripudiare, sta ricordando la dignità di quella persona che tu, uomo, sposando, hai riconosciuto. Quindi non si sta pronunciando sul tema del divorzio, che è un tema che non esisteva al suo tempo. Non so se mi spiego. Il divorzio è la separazione più o meno consensuale alla quale giungono due persone autonome, due adulti autonomi. Per cui, certo, una donna o un uomo che rimane solo perché l'altro divorzia può soffrire, ma difficilmente finisce nella miseria più nera. Mentre una donna che veniva ripudiata era altamente possibile, anche perché esistevano, diciamo così, nella casistica giuridica del tempo, tanti motivi per poter ripudiare una donna. Secondo voi, perché si poteva ripudiare una donna? Non poteva avere figli, quindi primo caso, anche perché dovete sapere che quando non c'erano figli la colpa era sempre implicitamente della donna, perché nella medicina antica, praticamente inesistente, si immaginava che il seme maschile fosse sempre buono e che la terra nella quale veniva inserito era più o meno buona, quindi va bene. Ma c'erano anche dei motivi molto più futili. C'erano dei maestri al tempo di Gesù che dicevano: se tua moglie ha bruciato la cena, tu puoi ripudiarla. Immaginate che sistema di oppressione, che stress da prestazione vivevano le donne che dovevano essere all'altezza di ogni capriccio del marito. Ma c'è un altro motivo: se tu incontri una donna che ti piace di più, tu puoi ripudiare. Ci mancherebbe altro. Tutti d'accordo, immagino. Oggi, vabbè, più o meno funziona così anche per le donne almeno. Il discorso è proprio questo. Gesù dice: il ripudio è un'ingiustizia sociale. Il ripudio espone il fragile a diventare miserabile. Per questo lo contesta. E perché contesta la domanda dei Sadducei sulla donna che sposa sette mariti? Perché il contesto storico antico pensava che una donna funzionava e valeva se aveva figli. Ogni tanto viaggio in treno, non molto volentieri, confesso, perché sono una persona che sta invecchiando male, preferisce stare a casa. Però quando viaggio in treno, ogni tanto qualcuno, raramente, attacca a bottone. Raramente, perché io cerco di isolarmi subito ascoltando musica per crollare. Però qualcuno, e di solito sono delle donne che vogliono chiacchierare. Le domande che mi fanno queste gentili signore, è capitato un paio di volte, di solito sono: la prima, sei sposata? La seconda, o anche hai figli? A volte mi capita di sentire uomini che si incontrano in treno e sento domande tipo: che squadra tifi? Che lavoro fai? Che non sia un retaggio antico di questo patriarcato per cui una donna ha un valore soltanto se asseconda la grande aspettativa sociale che sia madre di figli. No, bisogna, questo discorso, anche a livello politico sentiamo parlare di questo, della natalità, questo bisogno di, che poi va contro una logica semplice, che il mondo non ha più risorse per tutti, quindi non dobbiamo fare figli, dobbiamo ottimizzare quelli che abbiamo, dobbiamo cercare di vivere dando possibilità a chi già esiste, anche di altri luoghi, avere il diritto di vivere, va bene. E quindi in questa logica Gesù si fa beffe della domanda su chi sarà moglie, perché è legato l'idea: sarai moglie di quella di cui hai avuto figli. No. Gesù sfugge a questo e dice: una donna ha una dignità in sé, anche se non ha figli. Anche se non ha figli, una donna ha la sua dignità. Questa capacità di vedere le persone per quello che sono è la trasparenza del volto di Dio. In questo senso Gesù è la trasparenza del volto di Dio, perché ha fatto e ha detto quello che Dio avrebbe voluto fare e dire in maniera esplicitamente umana. Leggo ancora. Pagina 82-83. Vivere un'unione di coppia nella logica liberante del Vangelo significa sfuggire all'assillante imperativo procreativo e all'arrogante prepotenza dell'androcentrismo, per ritrovarsi persone che condividono un progetto di vita finalizzato ad entrare in quella sintonia profonda e mai compiuta che porta felicità, a Ancora una volta, il Vangelo spinge ad umanizzarci per divenire ciò che siamo nel sogno del Dio vitale e amante, mai stanco di desiderare la nostra felicità. Ancora una domanda, e siamo al quinto capitolo, cioè l'ultimo. Che cosa dice a noi oggi la prassi di Gesù, al quale stavano particolarmente a cuore due categorie di persone, tre categorie di persone, ma Anna Maria ne esamina in particolare due: i poveri, i bambini e le donne in situazione di particolare vulnerabilità come le vedove. Ecco, ti chiedo, Anna Maria, in che senso questo messaggio forte di Gesù può dire qualcosa a noi oggi qui al monastero di San Biagio, titolare del monastero della Casa Lomenor, che si occupa da 50 anni di bambini di strada, persone povere? La domanda che mi fa Andrea, qual è ancora? Il mio ringraziamento, è relativo ai modelli patriarcali e al superamento dei modelli patriarcali che Gesù propone nella sua esperienza. Se dovessi chiedervi il modello sociale per voi vincente, dell'uomo e della donna vincente, qual è? Non so bene cosa mi rispondereste, ma difficilmente mi rispondereste che il modello vincente per l'uomo è un fragile. E il modello vincente per una donna è una persona anziana senza prospettive. Quando questa cosa è stata chiesta a Gesù implicitamente, perché nessuno gli ha fatto questa domanda, ma quando Gesù ha dovuto scegliere persone da indicare come modelli, ha scelto i bambini, che erano considerati al tempo di Gesù non esseri umani. Un bambino nella cultura antica era considerato un oggetto di famiglia, un bene, si poteva decidere di venderlo come schiavo. Dirò di più, se alla nascita si scopriva che era una femmina, il padre poteva decidere di esporla, cioè di abbandonarla. E nessuno poteva dire niente perché era il padre. Gesù prende un bambino e dice ai suoi discepoli e alle sue discepole: ecco chi entrerà nel regno dei cieli, cioè ecco chi entra nella logica di Dio, perché regno dei cieli o regno di Dio non vuol dire un castelletto con la bandierina Dio e non vuol dire paradiso. Il regno di Dio è la condizione umana nella quale Dio regna, cioè dove c'è giustizia, amore, inclusione, perdono. Allora Gesù dice: un modello per vivere il regno di Dio, cioè la logica di Dio, è un bambino che non ha diritti, che non ha chissà quali grandi possibilità, che però ha la capacità di imparare, è aperto alla vita. Quindi il modello maschile di Gesù è chi è aperto alla vita. Un modello poi unisex, va bene anche per le donne. E parlando ancora di modelli, indica la vedova. Vi ricordate quella vedova che getta due monetine nel tesoro del Tempio? Si dice che c'erano uomini ricchi che gettavano grandi monete. Il Tempio aveva una specie, tante cassette, ma in particolare c'erano quelle che avevano una specie di tromba come bocca della, in bocco della cassetta. Per cui quando si buttava la monetina faceva molto rumore. Quando andavano ricchi, si sentivano un fragore. È arrivato un ricco, tutti quanti. Ah, come... Quando è arrivata lei, si è sentito quasi niente. Aveva buttato circa i nostri 10 centesimi. E Gesù dice: ecco, ecco un modello di fede. Ha dato più di quello che poteva. Allora, una vedova, povera, che semplicemente dà tutto quello che ha, diventa il modello di una umanità liberata. Ecco, Gesù, in questo senso, penso che ha ancora tantissimo da insegnarci. Noi guardiamo sempre alla grandezza. Noi ammiriamo quelli che sono i ricchi. quando c'è qualcuno che è ricco, potente, non solo lo ammiriamo, ma di solito gli perdoniamo un sacco di cose. Si è comprato un grattacielo? Beh, certo, poteva perché era ricco. Ha rubato un pezzo di pane per la famiglia? Però questi furti che succedono, abbiamo un po' questa tendenza a esaltare quelli che sono già esaltati. Ed è il contrario del Vangelo, perché nel Vangelo di Luca si dice che Dio ha capovolto le sorti e ha alzato quelle dei piccoli, dei fragili. E con me questo messaggio consola sempre tanto, perché quando nella mia esperienza mi sento una persona con ferite, con limiti, dico, vado bene anche così. Sono anch'io una persona amata profondamente da Dio per quello che sono. E questo penso che quando lo sperimentiamo per noi, lo vogliamo vivere anche per gli altri. Allora la missione della Casa do Menor è una missione che dovrebbe stare al cuore a tutti, in questo senso. Grazie. Ecco, quindi avete capito, con un libretto di poco più di 100 pagine, c'è una piccola introduzione dove presenta la figura di Gesù, dice che cos'è lo stereotipo e dice che cos'è il patriarcato. Di Gesù dice così, è il primo termine di riferimento. Nella sua vita, nelle sue azioni, nelle sue parole si scorge il volto amante e vitale di quel Dio che Gesù chiamava padre e del quale parlava coi lineamenti di una madre. Bello anche questo. Quindi 5 capitoli e poi, tanto per favorire coloro che non sono abituati a leggere, fa una sintesi finale molto chiara, molto sintetica e molto bella. Però questa non è una domanda, è una sottolineatura. In queste 100 pagine Andrea Battaglia ha trovato 3 parole difficili. Io ho trovato invece per 8 volte un'espressione molto bella, no? Quello rivelatoci da Gesù di Nazareth è un Dio dal volto amante e vitale. Nella vita, nelle azioni, nelle parole di Gesù si scorge il volto amante e vitale di quel Dio che chiama, quello che ho citato adesso. Si parla di logica amante e vitale, per 8 volte torna questa espressione molto bella. Non è una domanda, è una sottolineatura. Se voi andrete poi a leggere il libro, individuerete i 7 passi dove Anna Maria dice questo. Ecco, però qui una domanda un po' più problematica. Ho iniziato chiedendoti se il tuo approccio ai testi biblici può essere considerato in qualche modo di tipo femminista e tu hai risposto. E termino invece chiedendoti come valuti e come ti rapporti rispetto a quel filone di studi teologici che ritiene necessario oggi ripensare la fede cristiana secondo categorie post-teiste. E spiega. Allora, tira la pietra e nasconde la mano, se ne va proprio. Dunque, intanto la ricorrenza per 8 volte, 8 è il numero della resurrezione, per 8 volte dell'espressione Dio vitale amante, conferma un fatto, cioè la mia visione teologica posteista, che io sono una teologa posteista. Non so se questo vi turba, dice non sappiamo neanche che cos'è. Allora, il teismo è il modo col quale noi siamo stati introdotti alla fede. Il teismo è il modo col quale dal 6000 avanti Cristo fino a qualche giorno fa si è pensato Dio, cioè come un'entità sovraumana con caratteristiche antropomorfiche. Antropos vuol dire persona, morfè vuol dire forma, quindi con delle forme umane, e antropopatica, con delle pathos, con delle emozioni umane, abitasse in una sfera diversa da quella umana, quindi c'erano due, si pensa che ci sono due dimensioni, la dimensione naturale, la nostra, e quella sovrannaturale, dove abita Dio. Noi spazialmente immaginiamo che siano i cieli, Dio sta in cielo, ok? Questa è un'espressione della cultura antica, anche biblica. Quindi Dio chi sarebbe in questa prospettiva? Il Theos, Theos in greco vuol dire Dio, quindi è una figura personale che sta fuori dal mondo, ha creato il mondo, non se ne disinteressa, ma quando tutto va male interviene dal di fuori. Per questo noi lo preghiamo e gli chiediamo che faccia finire la pandemia, che faccia finire la guerra in Ucraina, che faccia passare il mal di piedi. Questo Dio che sta fuori dal mondo ci scruta dall'alto dei cieli, di solito ce lo immaginiamo così, un maschio bianco, anziano, non solo lui, e questo Dio ci scruta perché vuole vedere come ci comportiamo in relazione ai suoi comandi. Poi quando finirà la vita, lui sarà lì, adesso banalizzo un po', ma con una specie di registro delle presenze per vedere com'è andata, ok? Ora, un po' banalizzato, un po' se volete anche una sorta di caricatura, ma sostanzialmente il teismo immagina Dio così. E per tanti secoli questa immagine è andata bene, finché non è successo che abbiamo avuto una rivoluzione a livello cognitivo che si chiama rivoluzione scientifica. Non so se avete saputo, Galileo Galilei e la sua banda ci hanno fatto scoprire che la pioggia non arriva perché Dio apre le cataratte del cielo, come pensava il libro della Genesi. La carestia non arriva perché Dio chiude i cieli, non piove, quindi la malattia non viene perché ti sei comportato male tu o i tuoi avi fino alla ventesima generazione, ma semplicemente la natura ha una sua, un suo statuto autonomo. Autos nomos, autos vuol dire per se stesso, nomos vuol dire legge, ha una legge sua. Questo ha comportato una progressiva crisi del teismo, per cui ci si è resi conto che, e l'abbiamo scoperto amaramente durante la pandemia, nel momento più acuto, e voglio pregare che finisse la pandemia. Mi sembra, poi non so se mi sbaglio, che non è che è finita appena abbiamo fatto la preghiera, ma questo lo sperimentiamo dolorosissimamente nelle nostre esperienze umane, nei nostri lutti, nelle nostre vicende dolorose, nelle malattie che dilaniano le persone che amiamo. Non basta pregare Dio. Allora Dio non esiste. Allora Dio è sordo. Oppure, come diceva Sant'Agostino, quando Dio non ascolta le preghiere è o perché hai pregato male, quindi un corso di liturgia per pregare bene, perché, o perché hai chiesto qualcosa di male, si vede che non era volontà di Dio che questa persona vivesse, un'altra assurdità totale. Oppure che siamo cattivi noi che chiediamo. Quindi in un modo o in un altro la colpa è nostra. Ma in realtà abbiamo creato una caricatura del volto di Dio, pensandolo come un essere supremo. Il post-teismo, post vuol dire oltre, ed è una parola che io devo confessarvi adoro, oltre, non a caso oltre gli stereotipi patriarcali, oltre, che Dio è oltre queste categorie. Che significa che Dio è oltre il teismo? Che Dio non è un essere, benché supremo, perché sarebbe sempre un essere accanto ad altri esseri. È invece il fondamento dell'essere, quella che io potrei definire con una metafora l'energia vitale e amante che permette a tutto di esserci. Allora, se volessimo usare una metafora spaziale, Dio non è più in cielo che ci guarda, Dio ci tiene in braccio. Noi siamo la sua espressione. Noi siamo i suoi figli e le sue figlie, siamo il racconto di Dio. Quando? Quando assecondiamo le sue due direttrici, la vitalità e l'amore. Come facciamo a sapere che Dio è vitale e amante? Lo sappiamo perché tutti gli esseri viventi sono vitali, vogliono vivere. Istinto di sopravvivenza. Tutti gli esseri viventi vogliono vivere. Se provate a pestare un insetto, l'insetto non dice eccomi, sono qui perché tu possa, scappa. L'istinto di sopravvivenza che noi abbiamo ci racconta che c'è un fondamento che è vitale, che è energia frizzante. Ma tutti gli esseri viventi sono capaci di una certa oblatività. Ci sono delle piante che quando per esempio è arrivato l'acqua salmastra invece dell'acqua dolce, fanno morire le foglie basse che fanno da filtro. Queste foglie muoiono per il bene della pianta. Ci sono degli uccelli che quando vedono arrivare il nemico gridano, sapendo di mettersi in pericolo per salvare tutti gli altri. Anche gli esseri umani ogni tanto sono capaci di fare qualcosa per gli altri. Pensiamo, quando amiamo qualcuno siamo capaci di dare la vita. Allora, tutti gli esseri sono vitali e sono amanti, avranno preso da qualcosa, da qualcuno, da questo fondamento dell'essere che noi chiamiamo Dio, che è vitale ed è amante. Io credo che questa prospettiva, che deve essere ripensata molto, perché comporta una trasformazione radicale, e penso di poter dire che in questo luogo stiamo studiando un modo per raccontare questa prospettiva, anche attraverso questi meravigliosi affreschi. Ecco, questa prospettiva è l'alba di un modo nuovo di pensare Dio. Perché il modo antico sta tramontando, non riesce più a dare ragione di Dio. Poi se qualcuno si sente a suo agio nel mondo antico, siamo contenti. Però io purtroppo no, per questo da diversi anni ormai faccio dei percorsi soprattutto via Zoom per permettere a tutti dove sono di seguirmi, nei quali parlo di queste tematiche. Proprio in questi giorni sto facendo un percorso che ripensa la figura di Maria di Nazareth in chiave posteista. E quindi stiamo ritornando al Vangelo, perché credo che i Vangeli, così come sono scritti, vogliono raccontare soltanto questa grande scoperta. In Gesù di Nazareth abbiamo visto il volto di Dio. Com'è il titolo di quest'ultimo corso online? Un restyling della Madonna. La casa editrice, la Meridiana, mi ha già chiesto di poterlo pubblicare quando finirà. Un restyling della Madonna, che capite bene che ha una valenza di significato molto più ampia di quello che... Va bene, se c'è il desiderio di fare domande ad Anna Maria, lei è ancora qui con noi, non ha fretta perché tornerà a Benevento domani mattina. Ha scritto molti libri, pubblicati quasi tutti da Amazon. Gesù per me, ma anche no, Miracoli e altri equivoci, Amazon l'anno scorso. Molto bello, si legge molto bene, questi ultimi concetti che adesso Anna Maria richiamava sono presentati. Io vi ricordo che un anno avevamo come tenda dell'incontro riflettuto con Paolo Spizzato sui miracoli, e andandomi a rileggere quello che avevo scritto dopo aver sentito Paolo Spizzato, condivido quello che oggi penso, quello che avevo scritto 5-6 anni fa. Un altro libro che ho letto di Anna Maria è questo, L'umanità di Gesù, trasparenza del divino. Anche qui è un corso online che hai fatto durante... È stata la novena di Natale. La novena di Natale ed altri ancora. Croce e delizia, ripensando la resurrezione di Gesù. Il più tosto da un punto di vista dei nostri concetti, perché ripensare la resurrezione di Gesù vuol dire liberarla dal mito. E questo è doloroso perché dobbiamo abbandonare le fiabe religiose che abbiamo imparato da bambini e che pensiamo che siano vere. C'è una verità più profonda che dobbiamo imparare ad accogliere. Per chi vuole, io dico sempre una cosa, a me piace moltissimo una frase che diceva il vescovo episcopaliano John Shelby Spong. Spong, che io adoro, proprio un'adorazione, è morto da poco, se no andavo ad adorarlo di persona, e diceva: io ho una proposta per chi sta cercando. Chi non sta cercando? Tranquillo dove sta, felice, non andrò a bussare al campanello. Quindi, ecco, mi sento in questa sintonia. Ho una proposta per chi sta cercando. In realtà in questo caso mi hanno cercato perché Andrea Battaglia mi ha telefonato per venire qui e io volentieri ho dedicato questi giorni a questa esperienza e a questo incontro, il quale ringrazio ancora Andrea, Cristina, di voi per questa... E quindi questa è la proposta. Se ci sono domande... Prego. Se riesco a dire, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. Nella parte nella demolizione di tutta una serie di immagini che anche a me non appartengono più da tempo. Io credo che, non lo so, penso che noi cristiani sicuramente ci sono altre strade da perché non è diventa la nostra, non lo so. Però noi cristiani abbiamo una posta di accesso. Che è Gesù. Certo. Dice, Gesù è la porta di accesso al mistero, certo. Capire, certo. Perché se noi partiamo con le fantasie, una volta partivano con le fantasie di questo vecchione, cioè, cerchiamo di partire con altre fantasie di altro tipo, ma sono di nuovo le nostre fantasie. Poi non lo so, io francamente mi fermo lì e dico, va bene, guardo te e così riesco a capire qualcosa nell'unico modo con le parole, con i tipi di modi che io sono in grado di capire. Essere umano, che non sono un essere solo di altro tipo, insomma, bene. Qui conoscere qui, cercare di capire un momento e la prossima. Certo, il tuo nome? Margherita. Margherita. Allora, Margherita dice: mi basta Gesù, anche a me. Sono d'accordo, Gesù è la trasparenza del volto di Dio. E io credo che ognuno di noi deve cercare e deve trovare quello che appaga la propria ricerca. Quindi è molto bello dire: io voglio incontrare Gesù perché credo che in Lui ci sia questa pienezza. Io credo che dobbiamo incontrarlo avendo il coraggio di demitizzarlo. Perché io tante volte ho sentito gente dire, non so, Gesù è morto in croce, vabbè, ma era il figlio di Dio. Gesù ha fatto, vabbè, ma era il figlio di Dio. Ma che vuol dire essere il figlio di Dio? Io sono figlia di Dio, sono sua espressione. Allora, se lo leggiamo così, Gesù diventa la porta. Lo dice nel Vangelo di Giovanni, io sono la porta. Però dobbiamo anche sapere aprire la porta. E le porte senza maniglie diventano muri. Un'altra frase del prossimo libro. Prossimo libro, una porta senza maniglie. Prego. Ti chiami? Luciano. Stiamo facendo un cammino di questo tipo e chiaramente c'è uno scontro con persone anche di una certa età, perché capisco che prendere il concetto di Dio personale è molto difficile, anche per noi stessi nel momento in cui sei disperato è quasi automatico pensare a qualcosa. Però capisco che è un cammino da fare e un concetto che mi era piaciuto moltissimo, detto anche da Spizzato, è che Cristo è vero uomo e si può parlare di una divinità, della parte divina di Cristo proprio perché ha raggiunto completamente la sua umanità. È un vero uomo, quindi l'umanità nella sua completezza diventa questa energia divina. Ecco. E quindi questi sono concetti che cerchiamo di lavorare usando, e mi fa piacere averlo. Una domanda così, dire come fai a insegnare alla gregoriana? Spegnete il registratore. Allora, prima di tutto, grazie Luciana. Luciana dice: per le persone di una certa età sono concetti difficili. Effettivamente, io vedo che per i giovani sono difficili. Quella certa età è la più problematica. E, i giovani cresciuti nelle nostre parrocchie. Una sveglia insistente, ritarda. I percorsi che sono seguiti, che propongo, hanno delle persone che non li mollano, sono persone di 80 anni che dicono: finalmente abbiamo trovato parole ai nostri pensieri. Quindi credo che i percorsi di fede siano, diciamo così, non abbiano età. Quindi mi permetto un po' questa battuta. L'umanità di Gesù è trasparenza del divino perché più noi, allora diceva Carlo Molari, che noi siamo in virtù, allora che Dio è una forza e noi siamo in virtù di quella forza e siamo tutto ciò che di quella forza riusciamo ad accogliere. Carlo Molari, Edizioni Gabrielli, Il cammino spirituale del cristiano. Pagina, no, pagina. Che significa questo? Che Gesù ha accolto quella forza con tutta la sua apertura fino a farla emergere completamente. Gesù è vero Dio. Questo. Ed è vero uomo perché in questa apertura la sua umanità esprime tutta la sua pienezza. La terza domanda, o meglio, la vera domanda, come fai a insegnare la Gregoriana? Bene, passiamo allora. Ora, a parte gli scherzi, le istituzioni fanno sempre fatica ad aprirsi al nuovo, ne parlavamo prima con Cristina, ne parlavamo con Mariella. Perché l'istituzione è la cristallizzazione di qualcosa, il carisma è la mobilità, l'elasticità. Allora, è difficile essere elastici quando si hanno delle strutture, però immagino che Andrea potrebbe spiegarci che le strutture devono avere un'elasticità, altrimenti crollano, in quanto ingegnere. Allora, la stessa Gregoriana è uno spazio di confronto, certamente privilegia una certa lettura di un certo tipo più tradizionale perché è quella teologia più affermata. Nei miei corsi io di solito accenno dei concetti fondamentali in maniera più, diciamo, vaga, e poi chi vuole approfondire mi trova in altri contesti, che sono appunto quelli dove mi muovo con più, diciamo, libertà espressiva. Credo che sia anche giusto rispettare lo spirito di alcune istituzioni, in generale dell'istituzione, perché l'istituzione, diciamo prima con Cristina, ha anche bisogno comunque di una sua stabilità. Quindi, ecco, questa apertura a un nuovo accennato come spunto, poi è giusto che questo nuovo trovi altri spazi e questo spazio di San Biagio io credo che ha un grossissimo potenziale per essere uno di questi spazi. Per questo credo che debba diventare, cioè rimanere assolutamente laico. Laos in greco vuol dire popolo, il laico è l'espressione del popolo. Grazie Luciana. Altri? Allora, mentre qualcuno si prepara a fare un'altra domanda, leggendo questo libro, io ho trovato la risposta ad una domanda che mi faccio da una vita. Ma in fondo, cosa serve credere? Cosa serve credere? E ho trovato che Anna Maria dà delle risposte molto belle. Non sapevo, però. Ve le leggo. Questo. Lo sguardo credente è come una fumante tisana di finocchio. Ci permette di ridimensionare le cose e dare il giusto peso agli eventi e alle situazioni. Non ci fa ignorare le fatiche, ma ci rende più agili per affrontarle. La fede è come l'infuso di cannella, sostiene nella fatica, illumina nel dubbio, rasserena circa gli esiti delle nostre battaglie. La fede è come il tarassaco, ci fortifica per darci l'energia del primo passo, del nuovo slancio. del perenne quotidiano amore. La fede è come una fumante tisana alla menta peperita, ci educa a dire parole autentiche e forti, ci fa raggiungere la pace ma senza la scorciatoia della finta condiscendenza, ci fa schierare con ferma decisione con le ragioni del debole oppresso, anche quando la debolezza è nostra, è mia, è tua, è sua, è vostra. La fede è come la camomilla, ci libera dalle ansie che ci attanagliano, ci regala la possibilità di un respiro più ampio ed uno sguardo più profondo, ci accompagna nelle vicissitudini dolci ad amare del nostro vivere per rinnovare in noi la capacità di guardare con occhi sempre nuovi il mondo, il creato, le persone, il nostro volto e il nostro cuore. Bene. In questo libretto, che nasce da una novena di Natale fatta su Zoom, io suggerivo di bere una tisana per ogni incontro e partivamo dalla riflessione simbolica della tisana per poi entrare nel testo biblico. Quindi sperimentazioni interessanti che qui si potrebbero fare anche dal vivo, sarebbe molto interessante. Bene, grazie di questa memoria. Ancora qualcuno? Allora, dico a Anna Maria, abbiamo partecipato quest'estate alla settimana di formazione ecumenica del SAE ad Assisi e nel corso di un dibattito si è parlato anche di teologia post-teista e abbiamo notato che un teologo protestante molto molto famoso, Fulvio Ferrario, che insegna alla Facoltà Valdese di Roma, che era molto critico, l'ha dichiarato e l'ha spiegato. Contestualmente, in collegamento online con la Militello, il nome com'è? Cettina Militello, che è una teologa, credo che non insegni più, no. Ecco, una teologa in pensione che però ha insegnato teologia per una vita, ha detto, ma no, perché? Parliamone. Parlarne fa sempre bene e quindi è una cosa possibile, ne parliamo. L'introduzione al libro di Paolo... Camberini, Deus 2.0, è fatta l'introduzione dal presidente dell'azione dell'Associazione Teologi Italiani, il quale dice: io su molte cose non sono d'accordo, ma perché non parlarne all'interno della Chiesa? Io mi auguro, Andrea, che una delle caratteristiche uno degli aspetti che potrebbe caratterizzare l'esperienza che sta nascendo qui al Monastero di San Biagio è questa, cioè avere la possibilità e avere il coraggio, avere la libertà di parlare anche di questi nuovi filoni di teologia, perché a molte persone della nostra generazione, per molte persone della nostra generazione sono davvero liberanti. Quindi io sono molto grato ad Andrea che ha avuto l'idea di far venire Anna Maria Corallo da Benevento. Quando me l'ha detto, ma Anna Maria ha scritto un libro molto interessante su Gesù oltre gli stereotipi, così le facciamo presentare. Quindi è colpa anche, tua, bene. Le facciamo presentare anche il libro. E quindi io credo che sia stato un incontro molto, molto interessante. Il libro ce ne sono alcune copie. Chi vuole lo prende, gli un contributo e speriamo di poterlo avere altre volte, insomma. Vuoi concludere tu, Andrea? Sì, io avrei detto tutto, vorrei solamente augurare un buon lavoro a Maria che collaborerà con noi per questo progetto di trasformare questa chiesa. Affrescati in una nuova cappella Sistina. saggio attuale, teologia monoteista, trovi posto, se vuoi dire, in questo piccone, la vecchia teologia veniva spiegata con affreschi e con simbologia accessibile ai monaci, ma anche al popolo che partecipava in questa chiesa, a questa chiesa per 1.000 anni fa. Il nostro obiettivo è quello di fare un altro sistema che permetta di trasmettere questa tipologia in maniera molto semplice, molto diretta, molto innovativa, che se vogliamo. Diana Baggi è deputata a provare a scrivere il testo di questa opera. Bene, intanto io voglio tornare a ringraziare sia Andrea Battaglia per l'invito a partecipare a questo progetto. Voglio esplicitare ulteriormente il mio apprezzamento e la mia ammirazione per quello che si sta realizzando qui, che si vuole realizzare. Abbiamo bisogno di spazi dove si possa respirare. E purtroppo non sempre li troviamo dove li cerchiamo. Ringrazio anche Cristina per questa sua introduzione, per il suo impegno in ambito politico in questo contesto così importante che io definirei umanizzante. È l'umanizzazione quello che dobbiamo diventare, quello che siamo chiamati a essere, cioè essere umani nella pienezza. Ringrazio Andrea per l'interrogazione dettagliata sul libro, nel quale ha dimostrato una lettura acuta e intelligente. L'unico difetto è che si è letto anche altri libri, ma comunque lo perdoniamo. Grazie a voi, a tutte e a tutti, per la vostra passione con la quale avete seguito questo incontro. Grazie.